Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non ti preoccupare, dico. Ho guidato in mezzo mondo e non mi sono mai perso. Poi ho la cartina di Bangkok e il mio senso dell'orientamento è infallibile. Lasciamo l'autostrada e entriamo nel niente. Alla terza svolta è già evidente a entrambi che avevo torto. Ciao, mi chiamo Sergio, vivo a Sondrio in Valtellina, lavoro in Svizzera, di lavoro principale faccio il papà e di lavoro secondario faccio il project manager. Mi piacerebbe sapere adesso, quelli che stavano ascoltando questo programma e che spesso, diciamo, hanno scritto più di una volta, prima a me e poi a Giampaolo Musumeci, dicendo: ma sei Matteo Caccia? Ma sei Giampaolo Musumeci? Sostenendo che abbiamo la stessa voce. Ecco, vorrei sentirli adesso per capire chi ha intuito che la voce che ha letto poco fa l'intro di questa puntata è proprio lui, è Giampaolo Musumeci. Giampaolo, buongiorno. Ciao Matteo, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Giampaolo è in studio oggi perché, in quanto venerdì 25 luglio, noi chiudiamo e Giampaolo apre invece lunedì prossimo alle 16, dalle 16 alle 17 con Nessun Luogo Lontano. Bentornato innanzitutto. Grazie. Lunedì cosa apriamo? Lunedì inizia un ciclo, una settimana speciale di programmazione, un piccolo lessico per orientarsi nel mondo dell'attualità internazionale, quindi A come armi, T come terrorismo, N come nuove frontiere. Cercheremo di dare un po' un vocabolario, un lessico base per... tutta roba allegra comunque. Beh, certo, tutta roba, certo. Su cui comunque si ride, tipo ah come armi, oppure ah come armi, esatto, ad esempio. Tantissime armi. Vabbè, le storie che racconta Giampaolo sono storie ovviamente fighissime e interessantissime, che sono diverse dalle nostre, per il fatto che lo diciamo prima fuori onda, che raccontiamo storie private noi e racconti storie anche private, sì. Tu che però hanno spesso un risvolti soprattutto pubblici e di livello internazionale, sì. Per lo più prima non vale perché te l'ho fatto un po' prima fuori onda sta domanda, sì. Però te la rifaccio, visto che più di una volta ci siamo trovati a dire: ma scusami, perché queste robe che tu racconti non le racconta nessuno? Come mai? Cioè, interessano solo a te, oppure è in Italia che succede che spesso non si raccontano queste cose? La risposta ovviamente è la seconda. Mi dici due cose importantissime che stanno succedendo nel mondo e che di cui in Italia non si parla adesso, due cose fondamentali, cioè che dobbiamo sapere. Ma mi viene in mente, cioè, non per citarmi addosso, però che ne so, ma citarmi addosso è brutto, no, vabbè, è assolutamente inelegante. Però insomma, credo di essere stato uno dei primi, se non l'unico, che parlava di Boko Haram qualche anno fa, no? Formazione estremista nigeriana, giusto per stare su temi allegri, ma molto prima del rapimento delle 200 studentesse, che tanto scalpore ha destato. Poi c'è stata la campagna anche di Michelle Obama, si è creata anche un caso mediatico su questa cosa, però i morti c'erano anche prima, molto prima che qualche VIP accendesse i riflettori su questa questione. Lo sforzo che faccio è quello di parlare di tematiche apparentemente lontane, e non vorrei suonare retorico, però veramente quello che succede dall'altra parte del mondo ci riguarda, ormai il mondo è piccolissimo, l'immigrazione è un tema che mette a nudo questa cosa, cioè noi non possiamo ignorare ciò che succede in Ghana perché poi bussano alle nostre porte con le conseguenze anche tragiche che vediamo tutti i giorni. Chiaro, io ancora devo capire quando è, ad esempio Boko Haram, insomma, è un esempio lampante, quando è che a un certo punto diventa in teoria interessante per noi, cioè quando la stampa o chi per lei decide che ok, di questa notizia ne posso parlare, fino a un giorno prima invece no. Sì. Beh, cioè, purtroppo, voglio dire, prima mi citavo addosso, adesso parlo male delle cose che non vanno fatte. Comunque, no, ci sono dei temi che a un certo punto diventano interessanti. C'è purtroppo, forse da parte di alcuni giornalisti, di alcuni media, l'arroganza di sapere cosa interessa la gente. E allora dicono: beh, se si parla ad esempio di sposa e bambina, beh, quello interessa, perché sicuramente è un tema caldo e me ne sono occupato in prima persona, per carità, per cui... Quindi ci interessa comunque, ovviamente. Ci interessa. Quando si rapiscono 200 studentesse per tornare è un caso eclatante, ma abbiamo dimenticato tutti i morti che erano avvenuti prima. Ci sono purtroppo dei temi che il caporedattore, il giornalista, il direttore a un certo punto dice: questo sì che piace al lettore. Io per anni, io sono freelance, mi sono sentito rifiutare storie perché mi diceva: no, vabbè, ma che... E poi c'è spesso questo un po' provincialismo italiano, per cui se non c'è... All'inizio, mi ricordo i miei primi viaggi, mi dicevano: cerca un prete italiano. Cioè, dovevi sempre cercare un prete italiano che ti raccontava una certa cosa. Dicevo: no, guarda, ho incontrato un personaggio incredibile, è indonesiano, però no, non va bene, deve essere un prete italiano oppure una donna. Storie di donne funzionano sempre, okay. Storie di preti italiani funzionano sempre. E vabbè, combattiamo con tutto questo, con nessun luogo lontano. Ok, quindi in futuro ne faremo puntate sui cuccioli, sui gattini. Perfetto. Beh, sì. È l'equivalente di certe prime pagine, giusto per... No? Assolutamente. Quindi allora, l'alfabeto la prima settimana, sì. E poi hai qualcosa... Ma poi staremo attaccatissimi a quello che accade, all'attualità, sì, sì. Diciamo, okay. Diamo gli strumenti basici per muoversi, per leggere l'attualità e poi partiamo a ricordare. Penso che pianterò qua la tenda dalle 8 del mattino alle 10 di sera, come faccio ogni anno. Insieme a Miriam, giusto? Che è certo. Dal vetro, la coppia immarcescibile della redazione, l'uomo che parla in maniera più pop di quello che succede fuori dall'Italia, Giampaolo Musumeci, Nessun Luogo Lontano da lunedì. Grazie mille Giampaolo. Grazie a voi. Ciao, presto. Ciao, ciao. E mentre Giampaolo esce dallo studio, noi continuiamo a raccontare la nostra storia. Oggi appunto chiudiamo di fatto una stagione intera di Voi Siete Qui, la 2013-2014. Abbiamo raccontato qualcosa come, ve lo dico subito, 230 storie con la storia di oggi, che è la storia di Sergio ed è quella che chiude. E in realtà non è così lontana dalla storia di Giampaolo, perché è vero che è un viaggio, ma c'è qualcosa che va storto, è veramente al limite tra il viaggio e l'avventura. Quindi immaginate di essere di notte, siete voi e vostra moglie, siete in auto, siete nei pressi di Bangkok e improvvisamente sbagliate strada. Il buio si fa denso, le luci della città ormai lontana diventano sempre più piccole e tenui nello specchietto retrovisore. 10 chilometri, 5 chilometri, 2 chilometri, l'aeroporto di Bangkok si avvicina. La stanchezza dopo 9 ore di guida prende il sopravvento sulla malinconia e la tristezza che mi montano dentro, come sempre in questi frangenti. Ma l'obiettivo però è vicino, con la mente ripercorro la mappa. Prossima uscita a sinistra, un paio di svolte e poi dovremo trovare il piccolo albergo che ci ospiterà per le poche ore che mancano al check-in. Non è in aeroporto, è appena fuori, in quelle zone limitrofe di impossibile classificazione urbanistica. Non è periferia, non è zona residenziale, non è zona commerciale, agricola o industriale. È solo niente, ma un niente con dentro un po' di tutto. Il volo è all'alba, durerà 12 ore. Lei voleva un albergo in aeroporto, ma era troppo costoso. Su mia insistenza abbiamo quindi ripiegato per un albergo nel niente. Costa poco ed è a 2 passi dall'autonoleggio. Eravamo alla periferia di Bangkok perché stavamo cercando un albergo, perché avevamo l'aereo che partiva la mattina successiva e per risparmiare un po', invece di andare in un albergo in aeroporto, avevamo scelto un albergo nelle zone limitrofe, sperando di trovarlo un po' più facilmente. Sembrava essere l'alternativa migliore. Sembrava, appunto. Ma se poi non troviamo la strada, mi disse lei prima di prenotare, ma non ti preoccupare. Ho guidato in mezzo mondo e non mi sono mai perso. Poi ho la cartina. Ho visto dov'è l'albergo ed il mio senso dell'orientamento è infallibile. Lasciamo l'autostrada. Entriamo nel niente. Alla terza svolta è già evidente a entrambi che avevo torto. Sono completamente perso in mezzo a quei capannoni di carico e scarico inframmezzati a casette, piccoli condomini, distributori di benzina, fabbriche e 7-Eleven. Non preoccuparti, mi fermo e guardo la cartina. Lei... zitta, rimane zitta. Al suo posto parla però la sua espressione, a metà tra il nervosismo per il prolungarsi del viaggio e il trionfalismo di quelli che te l'avevo detto io. Mi fermo, accende la luce, apro la cartina, è in inglese, i cartelli sono in Thai. Siamo fuori dalla zona turistica, niente segnaletica bilingue ed è inutile anche solo provare a chiedere indicazioni a un passante, ammesso di trovarne uno. Non c'è anima viva, è tardi ormai. Poche macchine sfrecciano veloci sui vialoni e vista la zona non ho molta voglia di provare a fermare una per scoprire chi c'è al suo interno. Tecnicamente parlando, sono fottuto. Per un istante la sua espressione trionfale passa da te l'avevo detto a te l'avevo detto invece tu sei il solito idiota presuntuoso. Poi però la stanchezza prima e la preoccupazione poi prendono il sopravvento. Ho paura, andiamo via di qui e trova sto cazzo di albergo, mi dice. Devo trovare una soluzione e trovarla subito. Cartina alla mano provo a ripercorrere mentalmente la strada appena percorsa per capire dove sono finito e dove ho sbagliato. Poi un flash mi attraversa la mente. La guida a sinistra. Il mio orientamento non si è ancora abituato nonostante i 3.000 km percorsi in 10 giorni. Dopo l'uscita dell'autostrada dovevo svoltare alla seconda a destra poi alla terza a sinistra e invece ho fatto il contrario. Ci sono, ho capito dove ho sbagliato. Dobbiamo solo tornare all'autostrada. Sicuro? Sicuro. Riaccendo la macchina, mi reimmetto deciso sulla strada in direzione opposta anche il busto e la testa sono protesi in avanti, come per ridurre il tempo per uscire da quella situazione difficile. Sono credibile, anche lei sembra rilassarsi e sorridere un po'. Alla fine è orgogliosa che il suo uomo, che lei ha scelto, non abbia tradito le aspettative. Con l'uscita dell'autostrada ritorno nuovamente sui miei passi. Sempre cartina alla mano, prendo la seconda a destra, poi con lo sguardo a sinistra conto la prima, la seconda e finalmente vedo più avanti la terza strada. Metto la freccia e svolto. Dietro di me nel frattempo è arrivata un'altra macchina. Ci siamo, dico con tono che non nasconde un certo sollievo e orgoglio. Entro nella strada. Non è a senso unico, ma è stretta e costeggiata da auto parcheggiate su entrambi i lati. Procedo lentamente, cercando con lo sguardo il cartello di un albergo, ma non c'è niente. L'illuminazione della strada principale qui non c'è. Se la giocano con l'oscurità solo le luci delle case, di qualche sporadico lampione basso e della macchina dietro di me. Sugli usci alcune donne discinte, sedute sugli scalini a guardare il cielo. Sono prostitute. Alcuni protettori piantonano le case fumando. La macchina dietro di me continua a seguirci. Guardo più avanti. In fondo alla strada non ci sono uscite. È chiusa. Mi devo fermare. La macchina dietro di noi si avvicina e si ferma. Spegne le luci lasciandoci praticamente nel buio. Si aprono entrambe le portiere. Scendono due uomini che valuto come non molto grossi ma neanche troppo piccoli. Confabulano qualcosa tra loro a voce bassa. Tre o quattro protettori scendono i pochi gradini e si incamminano anche loro verso di noi. Il libro Il mercante di fiori, letto mesi fa, riaffiora nella memoria, lucido. Il parallelo è agghiacciante. Una coppia di sposini sbaglia strada poco prima di entrare nell'aeroporto di Bangkok. Si trova smarrita in un hangar e dei criminali massacrano lui e rapiscono lei. Lui si risveglia in ospedale e passa la vita a cercare lei, diventata ormai prostituta di lusso. Il mercante di fiori è un libro di Diego Cugia che avevo letto alcuni mesi prima del viaggio, ma che non avevo mai associato al viaggio. Poi, quando è successo la storia del racconto, mi sono reso conto che eravamo esattamente nella stessa situazione dei protagonisti del libro all'inizio del libro. E visto poi l'evolversi del libro, la cosa non è che mi ha rassicurato molto, anzi, mi ha preoccupato molto. Lei capisce cosa sta succedendo, non riesce a parlare, sembra che anche lei stia ripercorrendo le tappe di quel libro. Mi guarda e l'unica espressione rimasta sul suo volto è terrore, puro e semplice. Pensa e pensa in fretta, penso tra me. Prendo il telefono. Chiamare la polizia è inutile, quindi cerco il numero del noleggio auto e glielo passo. Le dico, ora scendo a chiedere informazioni. Chiuditi dentro, chiama l'autonoleggio e digli di venirci a prendere. Sanno dove siamo, la macchina ha una di quelle scatole delle assicurazioni con la localizzazione satellitare. Digli che paghiamo qualsiasi extra, tanto vengono, se non per noi per la macchina. Se fuori butta male, digli di mandare la polizia. Scendo dalla macchina, chiudo la portiera e le faccio segno di chiudersi dentro. Le sorrido fingendo spudoratamente di essere tranquillo. Non lo sono. Non sono uno coraggioso, uno intrepido. Sono estremamente razionale e pauroso e non mi prenderei un rischio inutile per nessun motivo al mondo. Tranne questa volta. E il motivo è seduto in macchina. Rimpiango per la prima volta in vita mia di non saper essere un tipo violento, di non avere mai fatto una rissa con dei coltelli o di non avere mai spaccato la testa a qualcuno con il crick della macchina. So benissimo che se decidono di aggredirmi posso resistere al massimo qualche minuto. Nessuna speranza o illusione di uscirne vincitore. Il sudore scivola in cristalli di ghiaccio lungo la schiena. Il tipo della macchina, quello di destra, si avvicina con passo deciso. Gli altri si schierano dietro di lui come a impedirmi la fuga. Con una mano cerco i pochi soldi che ho in tasca da usare come merce di scambio, sperando che bastino. Tra me e lui restano pochi metri adesso, solo qualche passo. Si avvicina ancora e finalmente posso vederlo bene. Non ci voglio credere. La sua camicia con il logo dell'aeroporto parla per lui. Nessun criminale. Solo due inservienti tornati a casa a fine turno. Nessuna prostituta discinta, solo mogli accaldate e ad attenderli sulle scale. E nessun protettore, solo curiosi che si stanno chiedendo che cosa ci facciamo lì noi. Lui mi guarda, punta un dito verso di sé, prende il telefono, lo avvicina all'orecchio e dice «Taxi!». Poi mostra due dita, ne indica uno e poi indica me, indica l'altro e poi dice di nuovo «Taxi!». E poi, muovendo la mano, fa andare via le due dita insieme. Mi indica nuovamente e poi inclina il volto appoggiandolo alle mani messe a cuscino. Mi guarda in attesa di una risposta, annuisco un po' con la testa e dico «Sì, grazie!» direttamente in italiano. Lui fa una chiamata veloce, mi guarda e sempre con la mano mi fa un cenno che interpreto come «Arriva in 10 minuti». La paura si scioglie con un fremito del mio corpo. L'emozione è ancora a 1000. Con un sorriso infinito guardo verso la macchina e le dico «Amore, scendi pure, il signore è così gentile che ci ha chiamato un taxi!» Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I knew you'd love me as long as you wanted. And then someday you'd leave me for somebody new. È una foto bellissima quella che ci ha mandato Sergio, che trovate anche oggi, ultimo giorno, sul nostro sito radio24.it, la nostra pagina Voi Siete Qui. Si sta arrampicando su un albero che è chiaramente un albero tropicale, in mezzo a una foresta tropicale. Lui è su una maglietta verde, quindi è quasi mimetizzato, e sta cercando di raggiungere dei manghi. Pronto Sergio? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi? È il primo giorno di vacanza oggi, sono in piscina per i miei bambini. Ah, magnifico, ma dove esattamente? A Pinerella di Cervia. Ma Pinerella di Cervia, fa proprio pandan con la foto e con la tua storia, con la Thailandia, proprio la stessa vacanza, uguale. Direi che un insegnamento che avete tratto da questa vacanza è mai più Bangkok no, Pinerella di Cervia sì, direi, di sì, massimo. Insegnamenti che diciamo crescendo vi siete imborghesiti come tutti noi, ovviamente. Quanti anni fa accadeva questa storia, Sergio? 7-8 anni fa, non mi ricordo, più o meno 7-8. Ed eravate già sposati oppure eravate ancora? No, eravamo, ci conoscevamo da un paio d'anni e poi dopo 2-3 anni dopo il viaggio siamo sposati, poi abbiamo avuto i figli e insomma siamo imborghesiti, frigorifero pieno. Mentre prima invece frigorifero deserto e pizza al trancio. Senti, mi piace molto il paragone con il mercante di fiori che avevo letto anch'io anni fa, ed effettivamente da come la vedi tu è esattamente quella storia lì, cioè prostitute, zona nera, poi invece sono le mogli degli inservienti dell'aeroporto. Però sì, ma è il contesto che ti frega, perché sai, cioè, se io fossi andato lì di giorno volontariamente, certo, avrei detto tutto normale, che lavora così, ma invece arrivi lì di notte un po' spaventato, si ferma la macchina, la chiusa, poi a un certo punto ti viene in mente il libro e dici ok, è finita. Chiaro, e in più si legge anche benissimo quel misto di orgoglio e rabbia della compagna, no? Che è tipo, ma sto credito, io gliel'ho detto, prendi il GPS, prendi il navigatore, ma andiamo in aeroporto direttamente. E poi anche però un pochettino compiaciuta quando dice, visto? E poi sembra veramente una chiusura dei film dei Vanzina. Amore, scendi pure, che il signore è così gentile che ci ha chiamato un taxi. Io ti ho ringraziato perché, guarda, oggi la tua è l'ultima storia della stagione prima della pausa di agosto e della ripresa di settembre, e un finale così era magnifico, cioè passare dalla morte negli occhi a pensa, è così gentile che ha fatto anche lo 06969, ci chiama direttamente lui il taxi. Che cosa fai nella vita, Sergio? Io faccio il project manager. Per chi? Per che cosa? Che vuol dire? No, praticamente coordino per implementare un software. Per dirla proprio in poche parole. Per implementare un software che ci aiuterà a fare che cosa nella vita? Ci aiuta a comprare e vendere energia elettrica e gas, che sono quella che poi usiamo per farci da mangiare, per per scaldarsi l'acqua dalla doccia, insomma. Fantastico. Sergio, invece, visto che tu sei in vacanza e che questa settimana era dedicata ai viaggi, avete in mente qualche bel viaggio di quelli seri vostri da perdervi ed essere violentati in due, oppure ormai sempre solo Pinarella di Cervia? No, aspettiamo solo che non mi riesco ancora un attimo, quindi questa era un po' disponibile, ma appena loro riescono di un attimo... Okay. Guarda, purtroppo c'è, è un po' disturbata la conversazione, ma ho capito che, insomma, aspettate ancora un po' prima che i bambini crescano. Ti lascio tornare in piscina a Pinarella di Cervia. Credo che nessuno abbia mai detto Pinarella di Cervia così frequentemente in radio come oggi. Ma grazie, Sergio, in bocca al lupo per tutto. Ciao, a presto. Niente, neanche il ciao gli usciva questa cosa. Ma Pinarella di Cervia, che ponti ci sono esattamente? 349-238-6666. Ringrazio tutti quelli che ci scrivono e che ci salutano e che ci augurano buone vacanze e che ci maledicono perché magari non vanno in vacanza. Noi siamo tranquilli perché vi lasciamo in ottima compagnia. L'avete sentito in apertura. Gianpaolo Musumeci è un gran figo, racconta delle robe molto molto interessanti che difficilmente sentite altrove, a meno che non le andiate a cercare. Invece difficilmente sentite altrove le storie che arrivano qui, a meno che non le raccontiate voi, e quindi vi chiedo, se avete voglia di farlo, di condividere, continuare a condividere per la prossima stagione le esperienze della vostra vita, piccole storie che raccontino qualcosa della vostra vita, che ci facciano capire che non siamo soli al mondo, che in fondo il mondo ci assomiglia più di quanto immaginavamo, che siamo tutti esseri umani, che siamo piccoli, poi cresciamo, poi alla fine purtroppo moriamo, ma anche quella roba lì fa parte della vita, lo dico col sorriso sulle labbra, perché insomma le storie che ci arrivano poi quello fanno capire, no? La mappa che stiamo componendo è che c'è un arco temporale per tutto, per le storie e per la vita di ognuno di noi. L'indirizzo è sempre quello lì. Voi siete qui, @radio24.it. Noi siamo in onda, la stessa formazione, Tiziano Bonini, Margherita Hina e nel migliore dei casi Paolino Corleoni, da settembre alle 16, in diretta tutti i giorni fino alle 16.30, e poi in podcast potete recuperarci come volete e quando volete. Se avete voglia di leggere, oltre che di ascoltare le storie, ci sono ben non uno, non due, tre ebook da scaricare gratuitamente attraverso il nostro sito, o da Amazon, o da Ultima Books, o dall'Apple Store. Fate come volete. L'importante è che continuate a raccontare storie, fatelo tra di voi, scrivetecelo e mandatecelo. Raccontare storie è un atto politico, ti fa vedere un altro modo di vivere la vita e ti fa vedere un altro modo per stare nel mondo. Grazie a tutti, grazie ancora a Paolino Corleoni, Tiziano Bonini ovviamente, Margherita Hina, grazie a Mauro Pescio che scrive questo programma insieme a me. Godetevi le vacanze se ce l'avete, se non ce l'avete godetevi il vostro lavoro, quello che andate a fare. Grazie soprattutto a Sergio, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa.